Ciao, io sono Laura Boltolina e questa newsletter è Il contrario dell'invidia. Oggi per me è un anniversario. Sono 2 anni esatti dal mio trasloco in Ancona. Quel trasloco lì per me è un simbolo, è l'emblema di un passaggio di vita importante e spostarmi in una città sconosciuta in cui non avevo legami personali né lavorativi. Ricominciare da zero, per la seconda volta in 2 anni, in un luogo nuovo, non era nemmeno un'esperienza che avevo previsto di fare. A parte il consiglio spassionato di non traslocare mai in agosto, se puoi. Voglio condividere con te un pezzo della mia storia, di quel momento e dei mesi che l'hanno preceduto e seguito. Sta dentro una frase semplicissima. E quella frase sta tutta quanta dentro una parola sola, piccola e fondamentale. La frase è: ho ricevuto un'enormità di sostegno fisico, emotivo, spirituale, materiale, da un esercito di persone. È un'impresa impossibile per le condizioni e le circostanze. È diventata vera, un giorno alla volta. La parola è grazie. E il grazie si può allargare ancora un po'. Si può andare oltre la famiglia d'anima che nei momenti difficili ci fa rete e salvezza. Infatti, noi esseri umani siamo una specie collettiva. Ci siamo sviluppati per migliaia d'anni collaborando tra di noi, crescendo nell'empatia e nel sostegno reciproco. Ho visto il tuo sopracciglio alzarsi a questo punto, perché al di fuori della bolla delle persone care, a volte non sembra mica di essere proprio circondati da tutta questa collaborazione. Ma ci sono esperimenti sociali che dimostrano quanto siamo spontaneamente solidali e collaborativi, per nostra natura. La generosità, ad esempio, non è la devianza da una norma di egoismo condiviso, ma è l'opposto. È l'egoismo a costituire la devianza, mentre la condivisione, che è il mio personale modo per dire generosità, è la nostra naturale inclinazione. Il senso di separazione dalle altre persone, dal resto del genere umano, ma pure dal resto degli esseri viventi, è un'illusione. Un'illusione dannosa per tutti, perché genera invidia. E l'invidia fa malissimo alla nostra felicità e a quella di tutte le altre specie viventi. E se ci pensi, funziona così. Siccome ci sentiamo separati dalle altre persone, quando succede una cosa buona a qualcuno che non siamo noi, non riusciamo ad esserne felici, perché pensiamo che quella cosa buona avrebbe dovuto succedere a noi, mica agli altri. L'invidia si basa sul senso di scarsità. Come se le cose buone che possono succedere fossero in un numero ridotto, e quindi se accade a qualcuno che non siamo noi, allora ci sono meno possibilità che succedano anche a noi. Non c'è mica solo la lotteria, però. Quante volte ti capita di dire a qualcuno: sono felice per te? Spero che ti succeda spesso e spero che quando te l'avrò spiegato anche tu capirai perché ho cambiato la preposizione quando uso questa frase. Quando diciamo sono felice per te, stiamo dicendo sono felice al posto tuo. Stiamo dicendo mi immedesimo in te e quindi in questa situazione, in questa cosa buona che ti è capitata, io sono felice. Mi restituisce la sensazione di una sostituzione fra 2 elementi separati, diversi, distinti. Cioè, siccome tu e io siamo separati, allora per poter autenticamente gioire della tua buona fortuna, io devo mettermi nei tuoi panni. E se cambiassimo preposizione? E se diventasse io sono felice con te? In fondo, essere felici quando una persona è gioiosa perché è successa una cosa buona è essere felici con, insieme. Succede così che non abbiamo bisogno, per essere felici, che le cose buone succedano solo a noi. Possiamo gioire delle cose buone che succedono anche ad altri. Ci apriamo così a molte più opportunità di felicità. E le emozioni ci collegano gli uni agli altri. E indovina? L'emozione della gioia è quella che ci unisce di più tra noi. Per ogni cosa bella che succede, per ogni piccolo pezzettino di gioia che si aggiunge al mondo, il mondo diventa un po' migliore. C'è più bellezza di quanta ce ne fosse prima. Non ti sembra qualcosa da festeggiare? Essere umani significa per me che la tua buona fortuna è anche la mia buona fortuna ed è anche la nostra collettiva buona fortuna. Lo yoga è il mio strumento di condivisione preferito. La mia felicità è in buona parte racchiusa nel fatto che le persone che seguo, in gruppo o individualmente, online o di persona, siano un po' più felici quando l'incontro finisce rispetto a come erano quando è iniziato. Vuoi approfittare dell'estate per sbloccare qualche aspetto del tuo cammino individuale e vuoi farlo insieme a me? Scrivimi, perché nelle prossime settimane ho ancora 2 posti liberi per incontri personalizzati. Per settembre bollono in pentola alcune novità, intanto se ti va sbircia qui. Grazie sempre a chi risponde a queste mie mail o compila il modulo per il feedback, sia che ci conosciamo di persona oppure no, che ci incontriamo regolarmente o magari non succeda da tanto tempo. È meraviglioso, grazie. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Chandra Candiani, dalla sua raccolta La bambina pugile, ovvero La precisione dell'amore. Perché è ancora tutto da dire e insieme già tutto detto. Perché sappiamo insieme che l'universo è tutto, tutto abitato mirabilmente. Un abbraccio. Laura.